Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Qualche settimana fa stavo navigando online e mi imbatto sul sito di agendadigitale.it in un articolo che mi colpisce, mi ha veramente colpito. A firma di Giuliano Pozza, che è il Chief Information Officer dell'Università Cattolica di Milano, sono rimasto così colpito che l'ho voluto contattare e gli ho detto: Giuliano, vieni ai microfoni di Radio Next a raccontarci un pochino quello che io ho letto nell'articolo. Si parla di un metodo Gandalf, però adesso ci arriviamo. Giuliano è venuto ed è qui con noi. Buongiorno Giuliano. Buongiorno. Allora senti, partiamo dal punto più importante dell'articolo che tu hai scritto. Tu sostieni, ma questo ce lo diciamo non solo noi, ormai è il mercato che lo dice, gran parte dei progetti di digital transformation delle aziende tradizionali sono falliti e sono stati un gran bel disastro. Anzi, a volte i soldi investiti non hanno minimamente ripagato l'investimento, quello che è stato portato a casa. Allora, qual è il problema di fondo? Perché la trasformazione digitale è così difficile da essere applicata nelle aziende tradizionali? Ma allora, quello che dici è purtroppo vero, nel senso che è esperienza ormai di questi anni recenti e non solo, di grandi progetti e grandi fallimenti. A mio parere il nocciolo sta nel fatto che è sbagliato il paradigma, nel senso che mentre le grandi trasformazioni del passato erano spesso, diciamo, guidate da grandi condottieri piuttosto che da grandi geni, quindi fino al Rinascimento, i Leonardo, eccetera, a un certo punto poi è cambiato un po' il paradigma con la specializzazione, dal XVI secolo i grandi specialisti fino ad arrivare, l'altro momento emblematico è la conquista della Luna, no? Quindi lì invece il paradigma non era il genio ma il gruppo di esperti. Quindi ingegneri, tecnici, scienziati, un gruppo di super esperti e tutti gli altri a guardare, no? Col naso all'insù. Uh-huh. Quello era un altro paradigma che andava bene per quel tipo di trasformazioni. La trasformazione digitale è diversa perché qui il coinvolgimento di tutti gli attori come parte attiva e non passiva è la chiave del successo. E purtroppo in tantissimi progetti di trasformazione digitale questo non avviene. C'è ancora il gruppo di esperti. Quindi che cosa avviene esattamente? Cioè qual è l'errore, quali sono gli errori operativi che le aziende compiono? Come dicevamo, il primo errore è quello di basarsi su un gruppo che guida e gli altri che seguono. Questa cosa non funziona. Oltre a non funzionare, è anche uno spreco di risorse, se ci pensi. Ma no? Tu ci credi nella figura del Chief Digital Officer? Ma io come CIO dico dipende. Ok, nel senso che poi le persone fanno la differenza, no? Questo come sempre. Il tema non è tanto il titolo che diamo alla figura, ma il contenuto che diamo al ruolo, secondo me. Uh-huh. Allora, il contenuto di quel ruolo deve essere un contenuto di un leader di un modello diverso, quindi un leader che coinvolge tutti. Questo è la chiave per liberare l'energia dell'intelligenza collettiva di un'azienda o di un'organizzazione. Questo è l'unico modo, perché la trasformazione digitale è così profonda e così impattante che se non coinvolgi tutti, per forza prima o poi ti schianti. Hai citato intelligenza collettiva che nel tuo articolo ricorre e evidenzia, come dire, una differenziazione di approccio culturale dell'azienda. Ci spieghi dal tuo punto di vista che cosa significa esattamente intelligenza collettiva? Ma allora, il livello di complessità attuale è tale per cui, diciamo, o usiamo tutte le risorse o non siamo, no? L'intelligenza collettiva come punto cardine è proprio quello di mettere in gioco tutte le intelligenze in un network, è quello che internet ha abilitato, no? Di esempi di intelligenza collettiva su internet ce ne sono tantissimi, da Wikipedia in poi, no? E questo secondo me viene particolarmente bene con le nuove generazioni, tra l'altro, che si aspettano di essere coinvolte. Cioè l'esperienza per esempio che ho avuto recentemente, quando in università abbiamo aggiornato l'app per gli studenti, abbiamo aperto un canale per dare dei suggerimenti e dei feedback sul cui ci aspettavamo 2.000 o 3.000 risposte in tutto, ecco, nel primo mese ne sono arrivate più di 10.000. Alcune critiche, alcune costruttive, sempre intelligenti. Questo è un esempio di come c'è un'energia, diciamo, forte che aspetta di essere coinvolta. Mi viene da dire anche che le nuove generazioni non solo vogliono sentirsi partecipi, ma è naturale per loro condividere conoscenza. Mentre invece oggi chi guida le aziende è ancora chi salva i file in locale sopra il proprio computer, certo, perché ha paura di metterli, certo, su Google Drive, certo, no? Oppure ha difficoltà a lavorare su una presentazione di Office 365 condivisa in cloud dove ci lavorano 3 o 4 persone contemporaneamente. Ma secondo te come si cambia questa mentalità? Ma allora il cambiamento deve essere in primis culturale, no? Quindi sulla cultura si lavora solo su dei tempi lunghi, purtroppo, perché l'uomo non cambia in fretta, Però quindi. le aziende ci chiedono dei cambiamenti nei prossimi 6 mesi, nei prossimi 12 mesi, vogliono il risultato subito. Come si fa a fare in modo, come dire, di fare combaciare queste due cose? Io concordo con te, la cultura non la cambi in 6 mesi, ma i risultati economici li vogliono vedere alla fine del semestre perché li devono presentare nella semestrale perché magari è quotata l'azienda. Ma allora, secondo me ci sono due aspetti. Uno, perché il cambiamento avvenga in fretta, ci deve essere una necessità percepita. Quindi è quello che Kotter diceva, il senso di urgenza del cambiamento. Quindi bisogna che l'azienda o il gruppo di persone deve sentire questa urgenza di cambiamento. L'altro aspetto, che secondo me anche nelle organizzazioni più tradizionali ci sono delle figure che sono più pronte a questo percorso, su cui bisogna far leva, no? È quello che c'era un medico che in Vietnam qualche decennio fa ha fatto un esperimento chiamato quello dei devianti positivi. Cioè, in una zona rurale con delle famiglie molto povere, in cui i bambini erano tutti denutriti, c'erano delle famiglie in cui i bambini in realtà non erano denutriti, pur non avendo più risorse degli altri. Questo perché, questo medico spiegava, ci sono dei comportamenti devianti di queste famiglie, ma devianti in modo positivo. Per esempio, spezzettavano i pasti piuttosto che imboccavano i bambini anche quando erano malati. Facendo leva su questi devianti positivi, secondo me si può cambiare sempre usando un'intelligenza collettiva che usa in modo diverso le risorse diverse, cambiare in tempi più brevi. Quindi urgenza e uso intelligente dei devianti positivi, ecco. Ma l'urgenza deve essere parte, deve essere collettiva, non può essere metto i cerini accesi tra le dita dei piedi del CDO perché deve cambiare L'urgenza deve l'azienda. essere collettiva, E l'urgenza deve anche il essere senso di collettiva. responsabilità deve essere collettivo su questo Assolutamente. cambiamento. Tu parli Assolutamente. nel tuo articolo, citi questo passaggio interessantissimo, secondo me, da DevOps a GovOps. Come mutuare le efficienze ottenute in ambito software sul processo decisionale aziendale? Ma allora, da un lato secondo me è interessante che alcuni temi nati nell'ambito software vengano portati, diciamo, di business agility si parla da un po', no? Però Certo. l'agility è un concetto che nasce nell'ambito software. Perché? Perché è esperienza comune anche diciamo, di tutti noi il fatto che la tecnologia cambia continuamente. Chi lavora nell'informatica sa che ogni 2 o 3 anni cambia completamente tutto, ma anche nel lavoro quotidiano, no? Quando tu lavori su un requisito con un utente, probabilmente il giorno dopo è già vecchio. Questo cambiamento, che è parte del lavoro, ha portato alcune persone, diciamo, a elaborare delle metodologie per gestire il cambiamento, che in parte sono state mutuate anche dalla parte, diciamo, di business, no? DevOps è un esempio, cioè dove c'era una frattura tra chi sviluppava delle applicazioni e chi le gestiva, si è creato un processo che ha mutuato da tante esperienze, anche dal Lean, dall'esperienza manageriale del Da Total Toyota. Quality della Toyota, eccetera, per far sì che questo diventasse un flusso continuo. Questa cosa ci ha dato Netflix, ci ha dato Amazon, ci ha dato Spotify. Molte di queste aziende lavorano così. Vero, però sono aziende che sono partite da pagina bianca, non c'erano prima. È più facile forse farlo che non riconvertire un'impresa già esistente con migliaia di persone che sono abituate a un metodo waterfall gerarchico, top down, manageriale in positivo, no? Ma guarda, partiamo dal principio che nessuno cambia continuamente se non è costretto, perché cambiare continuamente è una È una sofferenza, a fatica. parte pochi devianti che amano cambiare, ma qui è un tema di instabilità forse, cambiare è una fatica. Quindi io poi sono convinto che però le risorse ci siano anche in aziende tradizionali, no? Come Ma non ci dicevo. si allena anche a cambiare? Cioè, non c'è anche una necessità di imparare ad allenarsi a cambiare? Io, per esempio, quando insegno, quando faccio docenza, una delle cose che dico soprattutto ai professionisti è: dovreste imparare a farvi licenziare, perché è interessante imparare a ritornare, tra virgolette, sulla strada per ricominciare da zero con zero risorse, come dire, zero risorse logiche in tasca. Poi avrai il tuo gruzzoletto in banca che ti permette di sopravvivere, però l'ansia del "e domani che cosa faccio?" ti aiuta a rimettere, come dire, a riprioritizzare tutte le tue attività. Ora, non bisognerebbe anche un po' imparare ad essere instabili o a governare l'instabilità? Beh, assolutamente sì, e questo è un allenamento. A me piace moltissimo la figura, non so se avete occasione di leggere qualche libro, per esempio, sulla storia di Miyamoto Musashi, no? Questo è il più grande samurai giapponese che si definiva uno studente. ancora quando era avanti negli anni, no? Lui era il più grande, si definiva uno studente che stava imparando la via della spada. È un atteggiamento mentale questo, no? Che ti cambia il modo di affrontare. Un Socrate giapponese, se vogliamo. Un Socrate giapponese, possiamo dire. Sì. Senti, veniamo adesso al metodo Gandalf, che dovrebbe essere letto Gandalf, ma poi funziona molto meglio con Gandalf, anche perché qui svegliamo un arcano, la tua passione per il mondo di Tolkien. Che cos'è il metodo Gandalf? Ma allora, abbiamo parlato prima di due paradigmi, no? Quello passato, il condottiero, il genio, quello che è venuto dopo, quindi il gruppo di specialisti. Il metodo Gandalf è un metodo nuovo e antico, no? Nel senso che poi la mia passione per Tolkien me l'ha fatto vedere lì. Il Signore degli Anelli, come tutte le grandi storie, possono essere letti a tantissimi livelli, no? E questa è la grandezza. Ci sono sette punti però che lo contraddistinguono, ce li racconti? Da quella storia i sette punti che attualizzano il tema, diciamo, dell'agilità e del GovOps sono di fatto sette passi. Il primo passo è avere degli obiettivi strategici condivisi, no? È quello che nel romanzo di Tolkien è l'obiettivo, è salviamo la Terra di Mezzo. Da lì però bisogna scendere nel concreto, quindi qual è il risultato che vogliamo portare a casa. Nel contesto di Tolkien è distruggiamo l'anello, che è come salvo la Terra di Mezzo. Poi c'è la condivisione della strategia di governance con tutti gli stakeholder. C'è il passaggio che è il consiglio di Elrond, no? Non so se avete presente, in cui ci sono tutti i rappresentanti della Terra di Mezzo. Gli elfi però poi non ci vanno. Oddio, no, ce ne va solo uno. Ce ne va uno. E gli hobbit sono sovrarappresentati, questa è un'altra cosa. Erano una minoranza, esatto. I meno potenti sono sovrarappresentati. Quindi nel consiglio chi, diciamo, gerarchicamente pesa di meno è rappresentato di più degli altri. Questo è interessante. Poi la compagnia dell'anello prende alcuni membri del consiglio e li coinvolge nell'execution proprio, quindi la fase di execution. Il quinto punto è, io l'ho chiamato, non puoi bagnarti due volte nello stesso brandivino, no? Che è il fiume che c'è nella contea, ovviamente ho mutuato da qualcun altro, però è l'accettare il cambiamento continuo e l'adattarsi. Il sesto punto è il primato degli hobbit, hobbit first. Abbiamo visto che sono presenti nel consiglio, sono sovrarappresentati nella compagnia dell'anello. Questo ha un significato. Sono, no? Autonomi e indipendenti nei loro percorsi, perché sia Pipino che Merrill, che da una parte, che gli altri due dall'altra, che Frodo e Sam, vanno per due strade diverse rispetto a Gandalf e ai cavalieri, giusto? E Frodo, ma anche Sam, prendono delle decisioni fondamentali. Questo è l'ultimo principio, che ho chiamato il principio olografico, cioè come in un ologramma ogni pezzo contiene l'ologramma, ogni membro della compagnia aveva una tale, diciamo, vicinanza con gli obiettivi e con il fine che era in grado di prendere decisioni autonome. Nella trasformazione digitale questo è fondamentale. Hai toccato un punto secondo me fondamentale: condivisione degli obiettivi e libertà nella decisione di come raggiungerli. È un po' come dire, ci troviamo tutti quanti davanti alla pizzeria e ognuno sceglie qual è il mezzo che preferisce per arrivarci, senza doverci tutti quanti obbligare a condividiamo la macchina, andiamo in autobus, come vai tu, come vado io. Serve però ovviamente anche una delega e un trust nei confronti delle persone che lavorano con te o lavorano nella tua azienda, per dirgli ok, andate avanti con coraggio, fate le vostre scelte, l'importante è che ci troviamo tutti quanti verso un obiettivo che è condiviso. Ancora, secondo me qui l'esperienza dell'informatica, sarà un po' fissato, ci aiuta, no? In un mondo che cambia così velocemente, io non potrei mai dire ad un mio sistemista come deve fare le cose o a un mio sviluppatore, perché io ho fatto lo sviluppatore 20 anni fa, il mondo è cambiato almeno 5 volte da 20 anni fa nell'ambito dello sviluppo software. Quindi ci obbliga ad un meccanismo di delega. In altri ambiti magari l'approccio è un po' più tradizionale, più top down, cioè ti dico cosa devi fare. Il ti dico cosa devi fare ha tutti i limiti che possiamo capire, no? Il meccanismo di delega è il meccanismo potente, bisogna esercitarlo ovviamente con la giusta saggezza e il giusto discernimento. Per concludere, Giuliano, come tu giustamente hai scritto nel tuo articolo, l'approccio agile o agile è diventato quasi una moda, un hype, o come dire, tu giustamente scrivi non si può oggi entrare in una riunione dicendo, come dire, applico il metodo waterfall, è come fare un peto in pubblico, no? Certo. Non è fattibile. Ma dopo questa, lasciamola chiamare ubriacatura, è tutto agile ormai, anche l'apertura e la chiusura delle porte deve diventare un processo agile. Cosa rimane e quanto effettivamente è efficace la sua applicazione nel business? Cioè, è per tutti? È per pochi? È solo per alcune funzioni, per alcune attività? Ma allora, partiamo dal presupposto che Agile è stato vittima del suo stesso successo, no? Nel senso che, come dicevi tu, ormai non si può dire che non sei agile, anche perché il contrario di agile è per definizione negativo, no? Quindi sono tutti agili. In realtà, se andiamo a vedere, alcune aziende hanno fatto dei percorsi agili di grande valore, no? E non solo aziende create da zero come quelle che ho citato prima. Pensiamo alla Lego. La Lego era un'azienda che era quasi finita, i mattoncini non li usava più nessuno. Guardate che esplosione hanno avuto applicando metodi di business agility. Quindi hanno interiorizzato il paradigma agile, ancora la condizione era siamo costretti a cambiare, perché la Lego non poteva non cambiare, sennò sarebbe sparita come la Kodak, no? Quindi hanno dovuto cambiare, hanno fatto il percorso, ce ne sono altri di esempi, non è che la Lego ha licenziato tutti e ha riassunto tutti i giovani, no? Quindi vuol dire che è possibile. Secondo me vanno guardati questi modelli positivi, che ancora sono i devianti positivi, cioè quelli che sono riusciti ad andare dallo slogan all'applicazione fattuale e concreta, no? Ce ne sono, quelli vanno visti. Ripeto, l'esigenza di dover cambiare è fondamentale, è quello che scatena poi il cambiamento, no? Poi va coltivata, come abbiamo detto, però si parte da lì, bisogna avere questa consapevolezza. E allora come si fa a portare il metodo agile in aziende che non sono agile? Ma le storie ci dicono che ci sono tanti percorsi, non ce n'è uno solo, no? Uh-huh. A volte il percorso parte da un nucleo di persone interne che magari anche che vengono dall'IT o dallo sviluppo che lo porta a livello aziendale. Sicuramente serve un commitment del top management, perché se poi il top management ha un approccio, diciamo, top down, l'agile è morto prima di nascere. I percorsi sono diversi, ecco, poi ognuno secondo me deve trovare la sua storia. Uno dei punti che io cito nel metodo Gandalf è che non c'è una ricetta, ogni azienda in base ad alcuni principi deve costruire la sua strada, e questo è ineludibile, ahimè. Era Giuliano Pozza, Chief Information Officer della Università Cattolica di Milano, che ringraziamo. Grazie mille, Giuliano. E anche noi abbiamo concluso con questa puntata con Giuliano Pozza ai nostri microfoni. Ringraziamo ovviamente i nostri ascoltatori per essere stati con noi. Come sempre, per qualsiasi curiosità, informazione, domanda o dubbio, radionext@radio24.it. Un saluto da Pepe Modern.